La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Iba Sanichi, chao cara, ¿cómo estás? Hola querida, ¿cómo estás? Cantante, presentadora italiana, ganó San Remo 3 veces, 1967, Non pensare a me, 1969, Zingara y 1974, con la que vamos a escuchar. Y luego Elisa Toffoli, es una cantante y compositora, multiinstrumentista. Ganó San Remo en 2001 con Luce, Tramonti a Nordest. Insieme agli altri, lui perde sempre, ha perso anche con lei. Ladro e poeta, anche in amore, lui no, non cambia mai. Quando la sera tornava a casa, sconfitto più che mai. Thank you. mai sentendo. Avrai cura di tutto quello che ti ho dato. Dimmi, siamo nella stessa lacrima. Come un sole e una stella, nella luce che cade dagli occhi. Sui tramonti della mia terra, giuro di giorni di... Parole, lo que viene es esa canción ganadora de 1997 con Yalitza. Es uno de los cantantes italianos, un dueto integrado por Fabio Ricci y Alessandra Drusian. Habían participado en el 95, lograron el tercer puesto, y luego Franca Raimondi, ganadora en 1956, Aprite la finestre, abrir la ventana, muy conocida en la década de los 50, y los que ganaban en San Remo pasaban a Eurovisión, y ganó también con esta canción. Come sempre da te, sei un fiume di parole dove anneghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show cosa c'entra con noi? Trovo l'unico rimedio che adotto da un po'. La mia testa chiude l'audio, la storia la so. Sei fatto così, dovrei limitarmi oramai a dirti di sì. Fiumi di parole, tra noi non è più il mio. Io che perdo il tuo rispetto, sarebbe meglio un addio. È come in un film, il classico film, dove lei para la pazzia. Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Ti darò il mio cuore, ti darò il mio cuore, se vuoi, se vuoi, ora parla con lui. Vorrei fermare un'immagine, sentirla entrare dentro di me. Il tuo silenzio mi complice, Ricci e poveri, 1985, se mi innamoro, si me enamoro, En un principio fue un cuarteto de música pop italiana, pero en 1981 se convirtió en un trío después de la salida de Mariana Occhiena. Sus integrantes son Franco Gatti, Angela Brambatia, Angelo Zoggio, y esa fue la formación que ganó en San Remo. Luego Emma Marrone gana en 2012 Non è l'inferno. Emanuela Marrone, cantante italiana. Senza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per sotto questo invito non per compassione, ma per guardarla in faccia e farla assaporare un po' di vino e un poco di mangiare. Sapesse che fatica ho fatto per parlare con mio figlio che ha 30 anni, dove il sogno di sposarsi è la natura di diventare padre. E se sapesse quanto sia difficile il pensiero che per un giorno di lavoro c'è che ancora più diritti di chi ha creduto nel paese del futuro. Oh, questo no. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Siempre les están mintiendo a los mojuanos. Siempre hay cortes de agua y nunca ha sido potable. Que por favor piense en la gente de Mocoa. Mocoa, una reconstrucción que se quedó en promesas. He tomado la decisión de construir un nuevo acueducto. Acá tenemos toda la entrega de las 996 viviendas en el tiempo, en los próximos 2 años. Se cumplen 4 años de una tragedia que cobró la vida de más de 300 personas. Las víctimas siguen esperando viviendas, cárcel, acueducto, vías. María Camila Díaz y Joana Fuentes les cuentan qué pasó con este lamentable hecho en País Sin Memoria. Síganos en nuestras redes sociales, arroba País Sin Memoria W. Marca la diferencia. Elija bien. WRadio.com.co. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Te quiero a las 10 de la mañana, y a las 11 y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo. A veces, en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente, con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte Cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya, mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. Nos metemos en la boca de Dios hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. En 1972, Nicola Di Bari gana San Remo, Il Giorni del Arcobaleno. Michele Scomenja, cantante italiano, dos veces ganador en San Remo, 7-1 y 7-2. Luego, Angelo de Francesco Renga. Es un cantante que impulsó su carrera al punto de que llegó a grabar con Jarabe de Palo. Canta Nicola Di Bari. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, tu eri bambina, ti alzasti già donna. Adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è già iniziata la dolce avventura. Ormai sono bambine le amiche di prima, che si ritrovano a giocare e sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni ti senti già grande. Ma un giorno vedrai che ogni donna è matura, all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa incontro all'amore ti lascia alle spalle il tempo migliore. erano i giorni dell'arcobaleno. Finito l'inverno, tornava il sereno. Francesco Renga. Iba a creer, 1968, Canzone per te, Roberto Carlos, cantante brasileño, ha grabado en muchas lenguas, es el único latino que ha ganado San Remo. Y luego, Emilio Pericoli, 1963, Une per tutte, murió un 9 de abril de 2013. Participó también en Univision con la misma canción. ¡Y voilà! Il primo premio, chi ha vinto il Festival di Sanremo di quest'anno, 18ª edizione, ecco il foglio magico, 306 punti, al motivo firmato da Bardotti ed Endrigo, Canzone per te. Interpreti Roberto Carlos e l'autore Sergio Endrigo. In prima esecuzione Roberto Carlos al microfono, Dirige l'orchestra Renato Angiolini. Roberto Carlos è un divo nel Sud America e si appresta ad esserlo anche a casa nostra. Contento? Molto, molto contento. Molto contento. Sì. È la prima volta che canta in Italia, ha fatto altre prestazioni, mi pare, no? No. La prima volta di uno festival. È la prima volta che partecipa a un festival? Sì. Quindi si può accontentare, un primo premio sta bene. So. No. Bene, via con Roberto Carlos. Grazie, grazie. Sta appena cominciata, è già finita. Il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Chissà. Sogno la mia mano prenderà, sia un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene. Questo canto e canto te, stato tanto grande ormai non sa morire, per questo canto e canto te. Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà. Devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai non sa morire, per questo canto e canto te, ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto e canto te. Quasi fatta per me, dipinta per me, Claudia. Però confesso che tu mi piaci di più, Nadia. Di tutte tutto mi va, la la la, sempre. Non so decidermi mai, mi trovo perciò nei guai. Vi penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini mi accarezzano. Poi apro gli occhi occhi allora mi accorgo che non c'è nessuna accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia? Ho sulla bocca per voi la la la baci, ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. Sulla bocca per voi la la la baci, ed io li dedico a chi per prima dirà di sì, ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. Ahora nos vamos con Ricardo Fogli, ganador de 1982. Story di tutti i giorni. Es un cantante italiano, su carrera como la de todos, arranca en Sanremo. Alexia ganó en 2003, Per dire di no, cantante muy Eurodance. Recuerdo un éxito de ella, Me and You. Y cerramos con una de las más famosas, Pepino Di Capri, ganó en 1973. Un grande amore e niente più. Giuseppe Faila, cantante, compositor italiano, conocido como una de las voces más populares de la música napolitana. Thank you. che dà un impulso qui nell'anima, forse il color sì di questi occhi tuoi. Asciugata dal sole, solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia, qualche libro, una poesia e sul piano una fotografia. Io e te, grande amore, niente più. Io e te, le nostre cose fin laggiù, là dove c'è la campana scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, sera vorrei. Notti, notti d'amore, cuore, nel silenzio il mio nome e il tuo nome, ma non risale l'acqua di un fiume e nemmeno il tuo amore ritorna da me. Solitudine, malinconia, in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una sola cosa, che potevi almeno dirmi scusa. Io e te, un grande amore, niente più. Là dove c'è la campana scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore, vorrei, stasera vorrei. E niente più. Volveremos el próximo sábado aquí a la W.